Dunque, questa canzone, aspettate che... Ok, questa canzone parla di una ragazza che sembra un uccello. Lo fa così. Non posso vedere oltre.